Beh, innanzitutto benvenuti, buona serata a tutti. Questa giornata è un po' particolare per noi che l'abbiamo organizzata assieme all'archivio Primo Moroni, al Cox, e noi intendo noi in quanto gruppo, diciamo così, legato al sindacato Unisin e in particolar modo in BNL. E purtroppo perché a distanza di un anno è la seconda volta che ci ritroviamo a dover ricordare un nostro collega compagno che non c'è più. E come l'altra volta che era legato ad Alessandro Cazzaniga, anche questa volta per Renzo Prevedelli abbiamo pensato di organizzare una vera giornata proprio dedicata a quelli che erano i temi o comunque le attività che lui ha svolto con grande passione e con grande capacità in tutti gli anni che l'abbiamo avuto a fianco nostro e nella nostra banca. Renzo è stato un valente RLS, rappresentante di salute e sicurezza, ha fatto le battaglie più importanti, quelle che poi dopo anche da questo tavolo usciranno, e noi abbiamo pensato appunto di invitare in questo tavolo, naturalmente con la collaborazione di tutto l'archivio, che adesso sta lavorando. Io farei un applauso poi a tutto il Cox e all'archivio Primo Moroni, perché sono capaci di tutto. Adesso sono là in cucina. Io ho detto che oggi speriamo che questa parte di spettacolo e di dibattito sia pari alla cucina, perché io sento dei gran profumi, quindi ci aspettiamo, siamo a questo livello. Comunque grazie anche a loro che hanno permesso i contatti e le persone che abbiamo qui stasera, che sono assolutamente, diciamo, di grandissimo livello, e soprattutto siamo onorati di avere qui in primis qua a sinistra Nicola De Lussu, che per noi è stato tante cose, tantissime cose. Uno dei primi approcci sindacali nelle ASL, e poi stiamo aspettando in realtà Davide Biggi, che invece parlerà della parte, diciamo, più legata all'inquinamento, a chi si è battuto, da chi si ricorderà la nube tossica di Seveso, e quindi tutto quello che comporta anche il dover morire di lavoro, per il lavoro, per l'inquinamento del lavoro, e l'Ilva è un esempio, noi l'abbiamo messo nei titoli perché è un esempio più che mai lampante, e quindi lo stiamo aspettando il Davide Biggi. E abbiamo invece qui Alessandro Pellegatta, che è anche lui, qui è quello che è più citato qui in un sottotitolo, perché macchinista ferroviere per oltre 40 anni, e questa è la cosa che probabilmente ti dà più orgoglio di tutte quelle altre, è il tuo intervento, hai finito già lì. Poi attivista del sindacalismo di base, RLS, CUP, trasporti, e quanto è di drammatico in questi ultimi mesi quello che è successo anche sulle linee ferrate del nostro paese, e ne parlerà. E naturalmente non poteva mancare, ed è appunto, ritorna qui al Conchetta, il nostro segretario nazionale e responsabile BNL Unisin, Tommaso Vigliotti. Non abbiamo scelto un argomento specifico su cui trattare, ci potrebbe stare qui ore e ore, no? Diciamo che noi volevamo che questo fosse un omaggio e soprattutto un po' di storia e di attualità su quello che è l'attività legata alla salute e alla sicurezza. Anche io partirei proprio anche a livello personale, di storia personale di quello che tu hai vissuto in questi anni. Partirei proprio con Alessandro e il mondo che è quello delle ferrovie. Ma fregato, ero per secondo. Io, vabbè, intanto grazie veramente, sono veramente contento di essere qua, vi porto la mia esperienza, insomma, in realtà ci sarebbe da parlare molto. Io sono stato macchinista delle ferrovie per più di 40 anni, e adesso sono in pensione da quasi 3, e praticamente ho fatto attività ininterrotta per almeno diciamo 35 anni. In questa attività il fattore sicurezza ha pesato moltissimo, diciamo che poi è diventato praticamente la parte preponderante un po' di tutto l'intervento che abbiamo fatto. Noi di sicurezza parliamo tutti i giorni, tutte le notti, mi confronto tuttora con i miei compagni di lavoro che sono rimasti sui treni. Non si abbassa mai la guardia. Noi veniamo alla ribalta quando ci sono episodi drammatici, come è successo recentemente a Brandizzo, come è successo a Viareggio, come è successo a Crevalcore. Allora riceviamo le attenzioni della, così, dell'opinione pubblica, della stampa. Poi si ritorna nell'anonimato, ma la nostra battaglia nell'anonimato continua. Continua e non deve cessare un attimo. Ho lasciato delle copie del giornale. Noi tuttora facciamo un giornale. Quando sono entrato in Ferrovia io c'erano 27 giornali autogestiti da parte dei ferrovieri, oggi ne sono rimasti due, anche per far capire, diciamo, una parabola discendente anche di quello che è un po', diciamo, i rapporti di forza anche all'interno del mondo del lavoro. E uno di questi due è quello di cui sono tuttora redattore, lo trovate là, sto componendo il numero che uscirà tra pochi giorni e già noi facciamo praticamente nella nostra auto-organizzazione dal basso redazionale facciamo un censimento autoprodotto attraverso appunto dei referenti che abbiamo in tutto il territorio nazionale per segnalare, per denunciare tutto quello che avviene, diciamo, a repentaglio della sicurezza. Noi due giorni fa abbiamo avuto un morto sui binari, per dire, dopo Brandizzo, quindi la strage di operai addetti alla manutenzione continua. In un capannone alla Spezia è morto un altro operaio. Abbiamo avuto 5 feriti in questi ultimi due mesi. Abbiamo avuto casi di malore alla guida, dove per i turni ormai dove non è possibile spesso avere un riposo adeguato, molti macchinisti, diciamo più di un macchinista, hanno avuto un caso di malore alla guida, e tra l'altro si tratta di agente solo. Ripeto, lo ripeto sempre ogni volta e lo ribadisco anche adesso, il problema della sicurezza in ferrovia, l'accelerazione del problema sicurezza in ferrovia parte da lontano, parte da molto lontano, ed è bene ribadirlo, è bene saperlo. Nel 1982 Margaret Thatcher conduce una repressione durissima contro i minatori in sciopero. La sconfitta dei minatori inglesi apre una voragine a livello di rappresentanza, a livello di capacità di reggere, diciamo, gli urti della parte padronale. Dopo i minatori, la Thatcher parte con l'attacco al mondo dei trasporti, sgomina i sindacati dei trasporti, fanno delle azioni che poi verranno ripetute anche in scale diverse anche in altre parti del mondo e anche in Italia, quindi magari accontenta una particolare qualifica, una particolare mestiere, in quel caso i macchinisti, e quindi li tira fuori dalle lotte e parte, diciamo, con una brutale taglio dei posti di lavoro. Sappiamo cosa è successo, sappiamo che cos'è stata la deregulation, perché poi Reagan fa la stessa cosa negli aerei negli Stati Uniti. Parte una liberalizzazione che investe tutto il settore dei trasporti in tutto il mondo e che non si è ancora fermata. Questa liberalizzazione taglia milioni di posti di lavoro. In Inghilterra avviene in modo brutale, quindi addirittura vengono privatizzati i binari, non solo le compagnie di trasporto. E poi da lì si arriva alla metà degli anni 90, dove comincia questo fortissimo processo di ristrutturazione, e quindi, diciamo, i posti di lavoro cominciano a crollare, diciamo, in tutte le reti. Quindi il trasporto ferroviario, che aveva nel fattore umano una garanzia, quindi una ridondanza anche di controlli, io macchinista Nel momento in cui sbagliavo avevo il socio a fianco che mi diceva stai sbagliando, avevi magari un controllo su varie apparecchiature di sicurezza dove c'erano più controlli che andavano a interagire, nel momento in cui ne veniva meno uno c'erano tutti gli altri perché c'era il fattore umano, e con la scusa dell'avvento della tecnologia questa cosa, diciamo, provoca un crollo del... E soprattutto avviene una cosa, avviene la separazione in tutte le imprese ferroviarie tra quella che è l'infrastruttura e quello che è il trasporto. Cioè, mentre prima c'erano quelle che conoscevate tutti come ferrovie dello Stato, quindi era un ente unico. Adesso, che quindi dove c'erano, diciamo, gli addetti all'infrastruttura e gli addetti al trasporto che in qualche modo avevano dei contatti stretti, avviene che vengono separati come se fossero due imprese diverse, con la scusa che bisogna recuperare quote di traffico rispetto alla gomma, eccetera, eccetera, in realtà non è vero, si scatena una liberalizzazione del trasporto ferroviario, quindi cominciano a privatizzare il trasporto passeggeri, lo stesso avviene per il trasporto merci, poi lo stesso avviene per il trasporto regionale, più imprese che viaggiano sui binari, e quindi comincia una deregulation strisciante che assume dei contorni, questo non solo in Italia ma un po' dappertutto, assume dei contorni, e quindi noi cominciamo a collegarci tra di noi, tra le realtà di base. Noi allora eravamo rappresentanti sindacati di base, anche quei sindacati di base europei, e cominciamo a creare questa rete, diciamo, per cercare di porre un argine a questa cosa. Io vengo eletto RLS nel 2004, noi avevamo alle spalle lunghi anni di battaglie, dall'amianto sui locomotori ai policloruro bifenili che, diciamo, in certe apparecchiature di isolamento dell'alta tensione, poi avevamo cominciamo una serie di interventi, di battaglie sulla questione sicurezza. Legati soprattutto a tre fattori. Uno è sicuramente la qualità del riposo, cioè noi il peggioramento dei turni di lavoro aveva dei risvolti che andavano a intaccare, diciamo, la qualità stessa della nostra vita. Quindi noi praticamente cominciamo a fare degli studi legati soprattutto al sonno, alla qualità del sonno, al fatto che noi partivamo in tutte le ore del giorno e della notte, con un lavoro di forte responsabilità, e cominciamo a dire che praticamente a porre delle rivendicazioni che andassero verso un'umanizzazione dei turni e tutto quanto. Queste cose sono andate avanti per anni, ci siamo scontrati, spesso dall'altra parte avevamo anche i sindacati concertativi, confederali, che ovviamente spesso firmavano i contratti, stavano con l'azienda, non stavano certo con noi, e quindi dipendeva anche molto, molto dai rapporti di forza. Un'altra questione che notavamo veniva avanti a livello europeo era quando si comincia a andare verso una privatizzazione, una liberalizzazione, una concorrenza feroce, perché poi di quello si trattava, quando tante imprese arrivano sui binari per accaparrarsi il trasporto, la concorrenza diventa feroce, quindi si vanno a intaccare gli orari di lavoro, ma si vanno a intaccare anche tutta una serie di investimenti che vengono fatti, ad esempio la formazione. Io ho fatto, per arrivare a essere macchinista, avevo fatto quasi un anno di scuola. Adesso in pochi mesi mettono i macchinisti sui treni, per dire, e tutte queste questioni le notavamo, e inevitabilmente andavano a intaccare quello che era appunto il fattore sicurezza. Quando vengo eletto nel 2004 comincia una grossa battaglia qui in Italia da parte dei macchinisti, che è quella dell'uomo morto. L'uomo morto è un dispositivo fascista, perché il nome uomo morto l'ha dato Mussolini nel 1939. In realtà è l'apparecchiatura vigilante, quindi obbliga il macchinista che sta guidando un treno a tenere premuta una pedale per far vedere che è vivo. Infatti si chiama uomo morto, perché se io rilascio il pedale, dopo 3 secondi il treno va in frenatura. E noi hanno cominciato l'installazione sui locomotori, noi abbiamo cominciato una durissima battaglia per rifiutare questa apparecchiatura. Abbiamo fatto delle denunce, abbiamo fatto delle ricerche storiche per dimostrare che questa cosa, sì, è vero che c'era già in Europa, ma proprio quali erano le conseguenze sui macchinisti europei, perché noi eravamo le ferrovie più sicure d'Europa perché avevamo il doppio macchinista, e quindi questo attacco al doppio macchinista, perché l'uomo morto era finalizzato all'eliminazione del secondo agente, andava proprio verso una disumanizzazione del lavoro, perché io comunque ero obbligato a tenere premuto. Quindi fecero questa operazione, era una poi fecero delle reiterazioni, quindi voleva dire che io ogni 55 secondi dovevo rilasciare il pedale e poi schiacciarlo di nuovo. Poi quindi noi portammo avanti una campagna sia di rifiuto delle macchine sia di denuncia verso le ASL. Trovammo molte ASL che fecero le prescrizioni e in qualche modo obbligarono l'azienda a disinstallare questa apparecchiatura. Avemmo molte punizioni, avemmo anche qualche licenziamento, però comunque dopo tutto era rientrato, e questa sostanzialmente fu una battaglia vinta che dimostrava che dove noi avevamo degli argomenti validi riuscivamo in qualche modo a contrapporci a questa cosa. In realtà l'uomo morto perché era pericoloso? Perché poi è ritornato, oggi ce l'abbiamo di nuovo, sotto altre forme più blande, ma poi è tornato quando la categoria, diciamo, si è indebolita, però dopo molti anni. Nel frattempo quella battaglia fu vinta perché noi dimostrammo che innanzitutto distraeva, perché se io devo guardare la linea sono costretto a rivolgere la mia attenzione all'interno della cabina di guida, e quindi in qualche modo... ponemmo il problema non solo dell'ergonomia fisica, quindi dove io sono costretto a schiacciare un pedale, quindi diciamo sono costretto a avere come avere una lavorare, immaginate allo sportello di banca con una catena al piede, no? Che è lì a fare il bonifico, hai una palla al piede con una catena. Ecco, immagina che tu sei lì e ogni tanto devi schiacciare. Ecco, immagina una cosa del genere, farlo un giorno, 2 giorni, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, che cosa vuol dire? Di notte, magari in piena notte, magari con un treno lunghissimo, dove te ne vai, con la nebbia, eccetera, eccetera. E quindi si trattava di ergonomia cognitiva più che di ergonomia fisica. E appunto questa battaglia fu vinta e ci rinforzò. Cominciamo poi, chiaramente era legata a tutte le altre questioni legate alle condizioni di lavoro, quindi come RLS intervenivamo sulla sentieristica, sui dispositivi di protezione individuale, su tutte le questioni. Noi avevamo una capacità di intervento ormai che spaziava sull'aspetto dei segnali, facciamo modificare molti segnali, sulle interferenze, diciamo, luminose rispetto a quando viaggiavamo, eccetera, eccetera. Arriviamo sostanzialmente nel 2009, quando l'azienda con i sindacati concertativi firma l'accordo sull'agente solo, quindi viene eliminato il secondo agente dai treni, da gran parte dei treni, e quindi oggi si viaggia da soli. Cominciamo la lunghissima battaglia prendiamo diciamo centinaia e centinaia di giorni di sospensione, perdiamo tutte le cause, e in qualche modo questa cosa poi è passata. Da remoto hai fatto bene a fare questa domanda. Tu forse sei stato in Argentina. In Argentina c'era un ministro che si chiamava Randazzo, che era di origine italiana, ovviamente, mise le telecamere in cabina. I macchinisti per i turni gravosi, tutto quanto, si addormentavano, e lui cosa faceva? Prendeva queste immagini e le sparava nei telegiornali, no? Per cui successe un casino. Qui non ci sono le telecamere, qualcuno ha provato, ad esempio i nostri fratelli io li chiamo fratelli perché loro ci chiamano fratelli, macchinisti americani, quelli che guidano quei lunghissimi treni merci. Abbiamo delle esperienze allucinanti, cioè questi fanno, hanno treni di due, guidano treni di 2 chilometri, hanno non so quanti carri hanno, con sostanze pericolose dietro, transitano su linee che non hanno sistemi di sicurezza, diciamo, molto obsoleti. Anche a loro hanno cercato di installare le telecamere. Noi non abbiamo le telecamere in cabina, fortunatamente. C'è stato un recente tentativo di umanizzare quello che io chiamavo uomo morto, che è il pedale, cioè di mettere una tecnologia che è in uso, credo, nelle macchine tedesche, dove c'è una telecamera che ti guarda e se tu chiudi la palpebra, praticamente vede che tu non sei attento e frena il treno. Però pare che questo esperimento non sia andato in porto, insomma, che sarebbe, perché in pratica cos'è? Per far passare il vigilante non deve essere invasivo. Siccome noi abbiamo dimostrato che tutti questi strumenti sono invasivi, distraggono e tutto quanto, e praticamente però non c'è, non è passata. È una tecnologia che è in uso su alcune auto di marca tedesca. Poi praticamente arriviamo, come vi dicevo, ci sono una serie di gravi, gravissimi fatti. Pensate al disastro di Viareggio, arriviamo al disastro di Viareggio del 29 giugno 2009, dove c'è la strage, e noi praticamente, come RLS, alcuni di noi RLS ci costituiamo parte civile e cominciamo a supportare i familiari delle vittime. Una battaglia che dal 2009 a oggi va ancora avanti. Abbiamo avuto 3 gradi di giudizio, abbiamo avuto la siamo stati accolti, accettati come parte civile. La Cassazione invece ha ribaltato la sentenza, e quindi noi, 6 di noi, io sono uno dei 6 che sono stati condannati a pagare le spese processuali ai condannati. La strage di Viareggio è emblematica, io potrei parlare per ore di quello che è successo sui binari, dei cantieri non segnalati, come è avvenuto a Brandizzo, dove non vengono rispettate alcune procedure che avrebbero evitato quella strage, dove ci sono gli appalti e i subappalti, perché poi questo deriva dalla liberalizzazione ferroviaria di cui vi ho parlato prima. Prima c'era un'azienda unica, poi si passa a questo. Quindi ci sono imprese in subappalto dove probabilmente i lavoratori, l'RLS, non ce l'hanno neanche, dove non fanno i corsi che dovrebbero fare o li fanno solo sulla carta, dove i turni vengono taroccati, dove sono a tempo determinato e vengono ricattati. E poi queste sono le realtà che sono venute fuori dopo Brandizzo. Abbiamo scoperto che c'era un sommerso che, diciamo, era molto brutale. Che cosa è successo a Viareggio? Un carro della Germania Est, assemblato in Polonia, che poi viene controllato in Germania, che poi entra in Italia. Quindi questa, diciamo, è un po' la... si spacca l'asse, si spacca la ruota, e la ruota era la ruota di una ferrocisterna che trasportava un liquido infiammabile. Il liquido infiammabile esplode e sappiamo poi che cosa è successo. Ci siamo costituiti parte civile. Non siamo più stati ammessi come parte civile, come RLS, e quindi siamo stati condannati alle spese in 6. Fortunatamente è partita una campagna di solidarietà a livello nazionale che è riuscita a... Io ho tante cose da dire, però mi fermerei qua. Grazie. Intanto diamo il benvenuto anche a Davide Bingi dell'associazione Seveso Memoria, giusto? E quindi poi dopo entrerà nel dibattito. Adesso volevo sollecitare Nicola De Lusso in una duplice sua funzione, diciamo così. Ti volevo un po' così dare in là per fare un po' di storia su quello che dal tuo punto di vista, e parliamo dal punto di vista delle ASL, ecco, per dire, cosa è cambiato rispetto anche a quello che il neoliberismo, come Alessandro ci ha detto, un po' ha peggiorato le cose. Cosa si è riuscito a fare anche da un punto di vista, invece qui il tuo lato più Cobas, di lotte per poter tenere viva appunto la questione della sicurezza e della salute. E un'ultima cosa, a tuo modo di vedere, nel tuo osservatorio, a livello di lavoratori, non solo di sindacalisti, la sensibilità, l'attenzione verso queste problematiche è venuto meno negli anni, è scemata, oppure trovi ancora che ci sia anche a livello culturale? A me sembra che in realtà sia scemata proprio perché c'è tutto un mondo culturale che non è più vicino a queste tematiche. Dovrebbe funzionare. Funziona? Sì, sì, okay. Sì, vai. Allora, la sollecitazione è una grossa sollecitazione. Posso dire che se parliamo di epoche, stiamo parlando di prima di Cristo e dopo Cristo, nel senso che gli eventi infortunistici hanno vissuto da un punto di vista anche di quello che è stato il contesto normativo in cui avvengono una grossissima trasformazione. Cioè noi discutevamo delle norme di prevenzione degli infortuni che erano nate prima che io nascessi, e invece oggi ci confrontiamo con tutta quella parte che è stata modificata dal diritto europeo, quindi anche il testo unico delle norme sanitarie delle norme sugli infortuni di cui parliamo adesso, decreto legislativo 81, è sicuramente figlio del diritto comunitario, figlio delle direttive sociali, figlio di tutto quello che è la modalità con cui oggi viene garantita la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordatevi che il decreto legislativo 81 garantisce i requisiti minimi applicabili in un luogo di lavoro, non i requisiti massimi, quindi stabilisce delle condizioni al di sotto delle quali il concetto è quella di definire in sicurezza la situazione con la quale si ha a che fare. E io credo che queste direttive sociali, proprio perché finalizzate ai livelli di sicurezza dei lavoratori, si intrecciano notevolmente con quella che è la vita dei lavoratori nei sistemi di produzione, quindi anche con le scelte che il capitalismo ha fatto in questi decenni, che sono epocali rispetto a questa vicenda. Cioè noi siamo partiti da una situazione che ha determinato un cambio di passo nella stagione dei diritti dei lavoratori negli anni 80 con la sconfitta davanti alla Fiat, fino ad arrivare ai giorni odierni nella quale ci siamo misurati con tutta quella che è stata la vicenda della pandemia. Non voglio entrare sui termini della pandemia, ma voglio ragionare intorno alle scelte politiche fatte sulla pandemia. Quando parlo di questo intendo dire che tutti hanno potuto vedere quanto era alto il potere di Confindustria, delle associazioni industriali, che hanno deciso loro come regolamentare l'apertura o la chiusura dei luoghi di lavoro. Cioè, mentre le autorità sanitarie ragionavano in termini di riduzione dell'infezione e del contatto, dall'altra parte c'era qualcuno che diceva no, tu vai a lavorare, i luoghi di lavoro rimangono aperti, ben sapendo che quei luoghi di lavoro erano i luoghi nei quali l'infezione si riproduceva. Ma quello che è ancora peggio, sempre legandolo a questo sistema qua, è la lettura di una situazione che è stata la ripresa post pandemia, nella quale l'unica cosa che contava era il fatto che l'economia riprendesse quota, e quindi con l'economia che riprendeva quota c'è stata la stessa operazione vista durante la pandemia, ossia la mano libera ai datori di lavoro per decidere quali erano le norme di sicurezza. Io vi posso semplicemente dire numeri che possono far ragionare che la scelta del 110%, cioè del fatto di fare cappotti in tutta Milano in una situazione dove la manodopera adeguata, sufficiente, preparata per farlo non c'era, ha comportato la nascita in poco più di qualche mese di circa 32.000-33.000 imprese edili che si sono cimentate a lavorare praticamente senza neanche le opere provvisionali adeguate per poterlo fare. Parlo dei ponteggi banalmente. E quindi questi ponteggi sono arrivati dall'est, sono arrivate delle cose che... E quindi si è lavorato come si è lavorato. In tutto questo il paradosso è che la gente continua a morire e ne muore... c'è un tributo di sangue che è elevatissimo, perché quando parliamo di migliaia di infortuni in un anno stiamo dicendo che è una cosa allucinante per un paese che ha anche la pretesa di definirsi civile. Oggi il problema dell'infortunio sul lavoro è diventato il problema di chi lo subisce, non il problema della collettività, cioè a me capita un infortunio perché sto lavorando e non ho il diritto di tornare a casa, mi devo anche subire tutte le conseguenze di quello che è successo. E quando si parla di questo, pensiamo alle direttive sociali che avevano calato all'interno del nostro diritto la figura dell'RLS di cui si è parlato, e il fatto che neanche un mese fa c'è stata una condanna per un RLS in Cassazione che ha sancito il fatto che l'RLS era colpevole di non aver detto al datore di lavoro che lì c'era una condizione di pericolo. Io credo che questo rappresenti, se uno dovesse guardarla da fuori, dice questa è una gabbia di matti, cioè, non si capisce di che cosa si sta parlando. Da un lato si spende e si spande dicendo che bisogna diminuire il numero degli infortuni, dall'altro tu vai contro una figura che dovrebbe essere di rappresentanza, e conta poco che magari quella figura di RLS non fosse la figura di RLS che immaginiamo noi, no? Quella eletta dai lavoratori, nominata con le caratteristiche di voler rappresentare effettivamente gli interessi dei lavoratori. Mentre invece poteva essere tranquillamente una figura tranquillamente inserita nell'organizzazione aziendale con un livello completamente diverso. E un ragionamento che diventa anche assurdo se qualcuno vuol ragionare nei termini dell'involuzione del nostro diritto, per esempio sul fatto che noi viviamo in un periodo in cui nel nostro paese non si fa nient'altro che aumentare pene. Cioè, controllate, non c'è un settore nel quale il mangia salsicce non intervenga cercando di dire qui va aumentata la pena, qui va aumentata, come se fosse la soluzione a un problema. La stessa cosa sta succedendo pari pari anche nel sistema preventivo, ma su quali figure? Perché la figura che hanno individuato e su cui stanno scaricando una valanga di problemi è il preposto. È sul preposto che si tende a incentrare quell'attenzione, a dire tu vedi un comportamento che non va, devi intervenire. Non sto dicendo, perché sarebbe assurdo dire il contrario, che il preposto non abbia una funzione necessaria all'interno dei luoghi di lavoro. Il preposto ce l'ha, perché non sempre i comportamenti sono comportamenti accettabili. Non sempre il lavoratore è cosciente di mettere a repentaglio la propria esistenza nel momento in cui sta facendo la scelta di fare qualcosa. Alcune volte lo fa rischiando, cioè dice vabbè tanto è un lavoro di breve durata, tanto è un lavoro che non comporta problemi. Io credo di aver guardato non so quante volte quei filmati che sono usciti su Brandizzo, e non mi piacerebbe stare nella pelle di quello che organizzava a vista rispetto all'arrivo del treno dicendo ai lavoratori di lavorare, perché quella è una cosa allucinante, e ogni volta che tu ti trovi di fronte alla situazione nella quale sei tu che hai accettato, comandato il lavoratore a fare un lavoro senza avere contezza della situazione o delle misure di sicurezza che ci sono, sei in una situazione, io dico barbara, non solo perché metti a repentaglio quelli, ma perché lo stai facendo per conto di qualcuno che, voglio dire, con te non avete mica gli stessi interessi, tu e il datore di lavoro in questa vicenda. Alcune volte dovrebbe valere quel concetto che siamo costretti a richiamare, che è quella della dignità nei luoghi di lavoro, no? Del lavoratore che è ancora in grado di dire di no di fronte a qualcuno che gli chiede di fare qualcosa che non deve fare. Lo dico per esempio quando ci sono quelle cose che poi io, col lavoro che faccio, chiamiamo prassi scorretta tollerata da un punto di vista aziendale, cioè il fatto che vengano per esempio disabilitate delle misure di sicurezza perché tu devi portare a compimento dei lavori, comporta il fatto che il datore di lavoro stia accettando l'idea della rimozione della misura di sicurezza, e questo non è un dato positivo. In termini di dignità, il lavoratore che dice ok, disabilito le misure di sicurezza perché me l'ha detta il padrone, sta facendo una cosa da fuori di testa. E questo accade non so quante volte, ma sulle macchine è una di quelle cose frequenti. Poi la gente si meraviglia quando accade un infortunio perché la foto della donna bella, mamma, che può essere venduta sui giornali, invece se capita al marocchino brutto, sporco, che ha lavorato 12 ore al giorno, per lui non vale, no, questo tipo di ragionamento. Però al di là della iconografia che si vuole rappresentare, il problema è un problema serio. La rimozione dolosa di un dispositivo antinfortunistico è un modo per puntare una pistola addosso a qualcuno. Questo è il concetto che va tenuto presente. E in questo avrebbe dovuto nascere una sensibilità. E qualcuno mi diceva, la sensibilità è più bassa o più alta? Beh, io, se dovessi vedere quello che è successo da dopo la pandemia oggi, vi direi che la sensibilità è scesa di tantissimo, perché voi vedete una valanga di lavoratori che cammina sui tetti senza essere legata, perché voi vedete della gente che sale sui balconi senza alcuna misura di sicurezza. A me è capitato di vedere in una settimana vicende allucinanti, un lavoratore che, siccome deve andare a fare un intervento su un balcone, però non c'è il padrone di casa in quel momento, esce fuori dalla finestra delle scale e si arrampica al quinto piano per entrare all'interno del balcone per andare a fare il lavoro, perché non può tornare un'altra volta perché c'ha dei compiti che lo obbligano a terminare. Sì, però all'interno di una cosa così, al terzo passaggio entra ed esce, cade dal quinto piano e non la racconta. Ecco, sono queste le cose che ti portano a pensare che questo liberi tutti, che è un liberi tutti anche da un punto di vista culturale, che è entrato profondamente nei campi come nelle fabbriche, come nei servizi. Perché se io vi dicessi che qualche anno fa era stato presentato un lavoro dove si vedeva che la maggior parte del numero degli infortuni non accadeva nelle costruzioni, ma accadeva nei servizi, dentro l'RSA. Cioè, capiamo di che cosa stiamo parlando? Cioè, noi abbiamo una situazione che diventa complicata. Complicata perché una volta noi parlavamo di protagonismo operaio, di protagonista del lavoratore dentro le lotte, oggi siamo costretti a vedere sempre più, man mano che la lotta di resistenza sindacale si affievolisce, il lavoratore che trova le forme per andare verso la contrattazione individuale. E nella contrattazione individuale la sicurezza non esiste più. Nella contrattazione individuale il lavoratore negozia col datore di lavoro la doppia notte, negozia un orario incredibile di straordinari, negozia un lavoro in condizioni di sicurezza insicurezza evidente. E questi sono problemi. Diventano problemi enormi quando ci si rende conto anche di come è cambiata la nostra organizzazione del lavoro. Le norme che sono scritte, il decreto che richiamavo prima, il decreto legislativo 81, e una volta si sarebbe detto a misura di bianchi italiani. Oggi quel decreto legislativo 81, di fronte a manodopera nel settore manifatturiero prevalentemente immigrata, in taluni casi lascia il tempo che trova. C'è gente che non sa leggere le specifiche per mantenere in sicurezza una macchina, c'è gente che all'interno dei cantieri mantiene dei comportamenti che sono assurdi. Cioè, se io vi dico che noi ci siamo trovati a dover fare interventi senza alzarci dalla sede dell'ufficio nel quale lavoro, ma semplicemente guardando le finestre e i tetti che c'erano davanti, perché ormai vengono a lavorare lì sotto in tutti i modi e in tutte le maniere, lavorano con le piattaforme levabili, lavorano camminando sui tetti, cioè lavori, stai lavorando a 30 metri da terra, c'è bisogno che ci sia qualcuno che ti dice che se scivoli e vai di sotto ti raccolgono col cucchiaino? No, ma non c'ha senso. C'ha senso se lo rapportiamo a un altro problema, quello che per me è la madre di tutti i problemi. Il fatto che noi oggi all'interno di questo paese, e qui mantengo un vestito nel quale mi trovo più comodo, all'interno di questo paese noi abbiamo un problema di reddito che non si può più sottacere. Perché noi siamo in una situazione dove abbiamo gli stipendi bloccati da 30 anni, mentre il potere d'acquisto salariale va a remengo, mentre gli affitti costano il doppio, il andare a fare la spesa costa notevolmente di più, mentre mandare i figli a scuola è diventata improponibile. E non soltanto al San Raffaele, dove chiedono 20.000 euro di tasse per un anno scolastico, ma anche nelle università normali. Nessuno dice più che di questo passo alle università ci andranno soltanto i figli dei medici o di quelli che hanno un reddito alto. Nessuno ha il coraggio di rivendicare, guardate l'indecenza, l'impudicizia che c'è stata quando si è discusso di salario minimo, no? Cioè, non perché io pensi che quel salario minimo sia il salario deve essere un salario adeguato al costo della vita, perché se il salario non è adeguato al costo della vita, di che cosa stiamo parlando? Io mi sono occupato e mi occupo da una vita di diritto alla salute, ma che senso ha parlare di diritto alla salute quando se tu non hai soldi non puoi andare a curarti? Perché oggi vai a chiedere nel pubblico di poter fare una visita medica e ti rimandano agli anni che vengono. L'unica alternativa è poter avere i soldi per andare a prendere una visita medica nel privato. Ma per andare a prendere una visita medica nel privato tu devi avere i soldi. E se non ce li hai i soldi non la prendi, perché siamo a botte di 150, 200, 250, 300 euro a visita. Poi c'è il controllo, poi ci sono gli esami, poi c'è... Vuol dire che se ti arriva un problema sanitario serio in casa, quando parlo di problema sanitario serio, parlo di quei problemi sanitari che impediscono a chi ce li ha di ragionare, cioè si vende la casa... Ci si vende tutto quello che si ha pur di curarsi o di curare qualcuno dei tuoi. In una situazione di questo genere qua si capisce perché alcuni lavoratori vanno a lavorare in quelle condizioni, perché alcuni lavoratori accettano i ricatti nei luoghi di lavoro tutti, perché io ve lo dico, andate a vedere all'interno dell'RSA, io l'RSA ormai sono piene quasi esclusivamente di lavoratori immigrati, e questi lavoratori immigrati hanno una, due, tre, quattro, cinque finanziarie per pagarsi la casa, per pagarsi da mangiare, per pagarsi da vivere per i figli. Quindi in situazioni di questo genere qua, anche la sicurezza sul lavoro diventa un bene effimero, non un bene inalienabile come qualcuno sarebbe portato a credere, perché io mi sono trovato di fronte a due affermazioni che si contraddicono violentemente. Dire che la sicurezza è un bene inalienabile, come dice il Presidente della Repubblica, vuol dire che quando lo negano siamo di fronte a un'ingiustizia senza fine. Dire che c'è un problema culturale nel fare sicurezza nei luoghi di lavoro, e c'è, vuol però anche dire che nei nostri luoghi di lavoro non c'è una cultura della sicurezza. Ne volete una riprova? È la cosa più semplice. Pensate alla formazione. Lui l'ha citata, la formazione. Io sono convinto, visto che mi occupo di questo, che la formazione sia una leva indispensabile per fare sicurezza nei luoghi di lavoro, ma quello che accade è che oggi la sicurezza continua a essere un onere supplementare al costo del lavoro, unico onere che può essere tagliato, anche se poi nei contratti si dice che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a riduzione. E questa cosa qua è ancora peggio quando si parla di formazione. Perché la formazione non è una formazione di carattere generale, ti racconto due cazzate e tu stai a posto così. Ti racconto la favola del datore di lavoro, la favola del dirigente, la favola del preposto e abbiamo finito. No, la formazione deve essere una formazione di carattere generale, specifica al ruolo, all'attività, alla mansione, alle cose che devi fare. Tu devi sapere, devi avere gli elementi per proteggerti dal rischio a cui stai andando incontro. E la seconda cosa, che è ancora più drammatica, è anche quella del fatto che, per fortuna, dopo anni si è arrivato a parlare di formazione, informazione e addestramento. Ma ci sono una valanga di aziende che tutte queste cose qua le fanno andando in internet, pagando 50 euro, beccandosi l'attestato di formazione evidentemente falso, col quale hanno risolto i problemi. E guardate che la quantità di attestati falsi che girano è una cosa spaventosa. Allora, dentro un ragionamento di questo genere, chi può impedire questa roba qua? Beh, ancora una volta torniamo al soggetto. È il lavoratore, ma il lavoratore è ricattato e alcune volte firma che ha avuto la formazione anche quando non l'ha avuta, col risultato che quando si fa male e tenterà poi di dire ma io non l'ho mai fatta quella formazione, non gli crede nessuno. C'è la tua firma che dice che tu quel giorno a quell'ora eri a fare formazione. Alcune volte si riesce a trovare l'inghippo e la dimostri che quella roba lì era una cosa falsa. Hai una su mille, una su milione, non è la pratica. Allora torniamo, c'è una figura sulla quale io voglio tornare, che è l'RLS. L'RLS è una figura che normativamente parlando avrebbe dovuto essere il contraltare totale del datore di lavoro. È così? Ma non lo è manco per niente. Nella maggior parte dei casi la figura dell'RLS è stata comprata, addomesticata e normalizzata dal datore di lavoro. Fa il notaio acefalo che va a firmare un documento di valutazione dei rischi senza averlo letto, senza sapere che cosa sta firmando, senza sapere che sta firmando per misure che il datore di lavoro ha deciso per i suoi colleghi di lavoro, con tutto il risultato che ne comporta. In altri casi l'RLS, quando è un RLS sano, fatemi passare questa parola qua, è un RLS che è vessato, è un RLS che il datore di lavoro cerca di mettere all'angolo perché lo identifica come il rompicoglioni, cioè quello che sta in azienda. Lo sto dicendo a voi perché avete rotto le balle e io sono testimone di questa roba qua, quindi posso dirlo per questo motivo. Allora, lo fa dicendo che questi lavoratori si mettono contro gli interessi aziendali. Ah, io mi sono messo contro gli interessi aziendali, o sei tu che mi stai chiedendo di mettermi contro i miei interessi individuali, che sono quelli di portare la pellaccia a casa? Cioè, perché questo è il vero problema della situazione. Finché noi, dico noi inteso come mondo libero che crede nella giustizia sociale, io parlo della giustizia sociale, non dell'altra, è una cosa, sono due cose differenti. La cosa di cui sto parlando io è che noi siamo della convinzione che l'RLS dovrebbe essere quello titolato più di altri a discutere delle misure di sicurezza, a proporre delle integrazioni, degli aggiornamenti, a fare in maniera tale che quelle misure di sicurezza siano realmente calate nelle attività che vengono svolte all'interno del suo luogo di lavoro. Ma se quello che ho, io ho assistito a RLS che sono stati chiusi dentro l'ufficio dal datore di lavoro, impedendogli di uscire praticamente fino a quando non accettavano di sottoscrivere. E di sottoscrivere che cosa? Non sono io che ho firmato quell'esposto all'ATS. Cioè, si rimangiano quello che avevano fatto, la situazione più banale. Le persone che hanno fatto gli esposti per dire le condizioni di lavoro in cui lavoriamo, dove mancano persone, dove ci sono condizioni nel quale non vengono garantiti gli ausili, dove non vengono garantite attrezzature idonee, creano una condizione di stress. Qui ci arriva anche l'ultimo, è veramente stress quello lì, perché quando lavori con la paura di farti male vuol dire che sei in una condizione che di stress maggiore non dovrebbe essercene. Ma se poi dopo a quello lì è costretto a rimangiarsela, perché il datore di lavoro dice: se quelli vengono e mi fanno la sanzione la paghi tu, e non c'è nessuno dei suoi colleghi che lo difende, e questa è l'altra. Qual è la solitudine in cui molte volte viene lasciato l'RLS? La solitudine in cui non viene lasciato solo dai lavoratori, ma viene lasciato solo anche dalle organizzazioni sindacali. Quindi quando tu ci metti, già sto facendo un'attività che è scomoda. È vero che sulla legge c'è scritto che io non dovrei avere problemi per quanto mi muovo come RLS, ma noi abbiamo scoperto, basterebbe citare Dante De Angelis per capire, no, visto che eravamo in termini di ferrovie, per capire di che cosa stiamo parlando. Questo è il problema. Cioè l'RLS dovrebbe fare il suo mestiere, ma non lo può fare perché c'ha una palla al piede. Lui è un dipendente e come tale, come dipendente, il datore di lavoro non gli permetterà mai di essere al suo livello in quella che io chiamo la negoziazione delle misure di sicurezza. l'RLS non contratta, è vero, l'RLS non contratta, ma il problema è questo qua, che dall'altra parte voi avete ancora oggi una valanga di datori di lavoro anche nel settore trasporto. Mi sono occupato anche di quello, per cui conosco bene questa vicenda qua, dove non gli mettono a disposizione neanche il DVR, dove gli dicono ti leggi il DVR ma lo leggi in casa mia e non porti fuori nulla. E quindi su un ragionamento di questo genere qua non stiamo facendo un ragionamento da uomo libero a datore di lavoro. Non so se riesco, se sono riuscito a formulare il concetto. Ma sto dicendo che l'RLS va bene quando costituisce semplicemente un appendice che non disturba. Perché se disturba, se vuole assumere il ruolo di pelle gatta o il ruolo che ha assunto Dante De Angelis o tante altre persone meno note che hanno assunto questi ruoli... 100 giorni di sospensione. No, appunto, però voglio dire, no, io me lo immagino perché so che... le Ferrovie dello Stato non ci vanno, RFI non ci va a leggera rispetto a questi aspetti. Però il problema è ovviamente quello. Quanti ne vogliamo trovare di soggetti che sono disponibili a farsi martirizzare dal datore di lavoro? No, ma diciamolo in maniera chiara questo ragionamento qua, perché altrimenti ci fanno credere questa bufala, che è quella del fatto che per fortuna oggi i lavoratori hanno voce in capitolo sulle misure di sicurezza, e invece la voce in capitolo gliela ha data la Cassazione per dargli una salacca nei denti. Perché quello lì, se avesse detto prima che c'era qualcosa che non andava, il giorno dopo lo cacciavano. L'ha detta, e in una situazione di questo genere qua, per non aver detto al datore di lavoro, cioè per non aver detto forse per iscritto al datore di lavoro che c'erano delle cose che non andavano, si è ritrovato a pagare il dazio. Quindi io... penso di potermi fermare qua, perché i punti su cui volevo ragionare fondamentalmente erano questi. La sicurezza sul lavoro deve diventare, non è, deve diventare un diritto inalienabile, perché senza quello noi avremmo quello che accade. Beh, perché guardate, io parlo di mille morti all'anno in infortuni sul lavoro, non ho parlato di quanti morti all'anno ci sono per malattie professionali, non ho parlato dell'eredità di un rischio come quello di essere stati esposti all'amianto, che ha latenze anche ventennali rispetto all'insorgenza di patologie. Sto parlando esclusivamente di quelli che sono gli infortuni che sono sotto l'assicurazione di INAIL, mentre invece ci sono altri infortuni che hanno altre assicurazioni che non sono conteggiati in questi numeri che io sto dando, e questo costituisce problema, questo costituisce devastazione di diritto, questo costituisce da altri punti di vista... molte volte dobbiamo discutere, diceva, gli RLS non hanno mai sentito la necessità di informare gli organi di vigilanza che stava succedendo questo e quest'altro. Se non lo hanno fatto, non lo hanno fatto perché non sapevano di farlo, quindi non erano stati formati al ruolo, non l'hanno fatto perché gli hanno impedito di farlo, quindi erano di fatto prigionieri di un clima aziendale, o non lo hanno fatto perché non ne capiscono neanche l'importanza e perché ormai si sono resi conto che la mano libera è talmente alta che i giudici, per le sentenze che stanno facendo, stanno andando più in quella direzione. Qualcuno prima o poi si interrogerà per capire se la Cartabia è qualcosa che va a favore dei lavoratori o dei datori di lavoro, no? Visto che oggi si va a processo soltanto se l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero, ritiene che ci siano le condizioni per ottenere la condanna. E quindi laddove queste condizioni possono essere dubbiose o che non ci si va neanche a processo. Quindi per la sicurezza sul lavoro questo non è un grande traguardo. Basta. Ringraziamo, direi, un intervento esaustivo e globale di Nicola De Lussu. Volevo passare a Tommaso Vigliotti, perché anche Nicola ha tirato in ballo il discorso anche degli infortuni, ma anche di tutto quello che è legato alla malattia che c'è anche nel mondo dei servizi. E in particolare l'evoluzione degli anni ha portato parole nuove, no? Come quella dello stress da lavoro correlato, o comunque anche del rischio rapina. Questo grazie, penso, a noi in prima persona, no? Grazie Piero, buonasera a tutti. Oggi tra l'altro ricorre un evento importante, no? Che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e quello che accomuna questo tema con quello della salute e sicurezza sul lavoro, secondo me, non è solo il fatto che hanno entrambi numeri impressionanti, 106 femminicidi quest'anno fino ad ora, e io mi fermo ai dati ufficiali del primo semestre dell'INAIL, i 450 morti dei primi 6 mesi del 2023, che quindi si attestano poi su base annua ai 1000 morti all'anno, che sembra essere una soglia sotto la quale non si riesce a scendere. Okay, se guardate i numeri INAIL, le tabelle degli ultimi anni. Però dicevo, c'è un altro elemento che accomuna i due temi, che alla base c'è un grandissimo problema culturale. Da una parte quello forse di una cultura ancora un po' sessista, macista, patriarcale, maschilista, non so come la vogliamo definire. Dall'altra parte il fatto, come è stato ben detto, che comunque la sicurezza sul lavoro viene vissuta dai datori di lavoro e conseguentemente molto spesso anche dai lavoratori, perché obbligati, come un costo, come un peso, come una rottura di scatole, come un mero adempimento di obblighi normativi, e con essi anche appunto la formazione, che non viene svolta appunto per tutelarsi e per proteggersi, bensì perché va fatta, perché deve risultare che è stata fatta. Vedete, Piero ha fatto un'introduzione, però io lo so che un po' come l'anno scorso eravamo qui, parlavamo di precarietà, quindi di fronte a ben altri ambiti in cui c'è una forma di precarietà, o in questo caso dei veri rischi proprio per la vita dei lavoratori, ci si domanda: ma che ci azzeccano i bancari, ma che c'entrano le banche? No, c'entrano non solo perché, come è stato già accennato, nel settore dei servizi il numero magari di morti è inferiore, o facendo gli scongiuri, quelli dovuti alle condizioni di sicurezza forse anche azzerati, nel nostro caso nelle banche, però invece il problema delle malattie professionali è altissimo. Continuare a leggere di studi che dimostrano come i bancari siano la categoria più a rischio ansia, che fa più uso di psicofarmaci e che manifesta e denuncia con una maggiore frequenza i disturbi del sonno. Okay? Allora, questi sono temi che non si possono, prendere sotto gamba. E alla base di questi temi cosa c'è? C'è un fenomeno che chi lavora in banca conosce bene. Noi veniamo da un rinnovo del contratto nazionale siglato 2 giorni fa, che ancora una volta facciamo un passo avanti sul tema delle pressioni commerciali, sperando che un passettino alla volta questo contribuisca a riportare le condizioni di lavoro a quell'ambito di rispetto e di dignità della persona, che quando svolge le proprie attività professionali resta una persona e non diventa una prolunga della macchina piuttosto che qualche altra cosa. Quindi problema culturale che è alla base del modo in cui si affrontano questi temi è rappresentato benissimo dal fatto che noi siamo ancora oggi un paese nel quale troppo spesso si è costretti a scegliere tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, caso dell'Ilva è quello più eclatante, ma non è certamente l'unico. E questo non è ammissibile, non è plausibile che io debba scegliere non di correre il rischio di ammalarmi, ma di avere la certezza molto spesso di ammalarmi e di rischiare la vita, perché altrimenti non potrei lavorare. E anche dove questi rischi sarebbero minori, perché magari non c'è l'amianto o non ci sono altre cose, io devo correre i rischi perché sono messo nelle condizioni, come è stato ottimamente descritto, di non poter rispettare le norme che invece dovrebbero tutelare i luoghi di lavoro e lo svolgimento delle prestazioni. Ma qual è un altro elemento sul quale nel nostro settore invece noi vediamo notevolmente peggiorare la situazione di tutela della salute? Sicuramente noi ci concentriamo più sull'ambito salute, no? E meno su quello della sicurezza, anche se il riferimento al rischio rapina di cui parlava Piero dopo diremo qualcosa. Ecco, è l'esplosione dello smart working. Con l'esplosione dello smart working, che a molti farà piacere, che sarà sicuramente conterrà degli aspetti positivi anche per il lavoratore, però noi abbiamo fondamentalmente e sostanzialmente una traslazione di rischi e di doveri dal datore di lavoro al lavoratore. Punto, molto semplice. La postazione di lavoro che io ho a casa, che non è conforme, non ha i caratteri dell'ergonomia, non ha gli obblighi, non rispetta gli obblighi di legge, per un motivo semplice, perché sono responsabile io. Il datore di lavoro è scaricato da quest'onere, da questo dovere, da questo obbligo e anche dal costo. C'è stata l'esplosione dello smart working con la pandemia, come sappiamo, ma la stessa INAIL, dopo pochi mesi di massiccio ricorso a quelle forme di remotizzazione del lavoro, chiarì che non eravamo in presenza di lavoro agile o smart working, bensì di una forma ibrida, che non era né telelavoro e né smart working. Ecco, noi una battaglia che dobbiamo continuare a fare, in certi casi forse iniziare a fare, che quando si lavora da casa, e si lavora da casa soprattutto a tempo pieno, si è in telelavoro, perché col telelavoro questi obblighi restano e i relativi costi in capo al datore di lavoro. Non ci sarebbe altro motivo per il quale devo lavorare da casa, ma perché normativamente il datore di lavoro me lo chiama smart working e non telelavoro? Perché? È per questi motivi. Perché c'è uno scarico di responsabilità. E il ruolo dell'RLS è stato benissimo citato. Guardate, è un ruolo importantissimo anche in settori come quello bancario, settori dei servizi, perché la vigilanza, diciamo così, anche l'attività di denuncia, che deve essere la naturale conseguenza quando le cose non vanno, va fatta dappertutto. Noi dopo mesi in cui abbiamo in tutte le sedi, in tutti i luoghi, quindi vi parlo di casi concreti, denunciato, nel nostro caso alla BNL, ma situazioni simili ci sono in tutte le banche, l'inadeguatezza delle postazioni di lavoro o di talune postazioni di lavoro nei nuovi layout delle agenzie. L'azienda fa orecchia da mercante, va tutto bene, rispettiamo la legge, così non abbiamo alternativa, partono gli esposti a tutte le ASL, ci sono i controlli, ci sono le ispezioni, e assistiamo a due fenomeni. Uno, per chi non conoscesse la questione, la spiego un attimino meglio. Nei nuovi layout delle agenzie della BNL, che cosa succede? Che hanno creato tutta una serie di salottini che servono a ricevere il cliente, e in quanto tali non è prevista la possibilità che in quel salottino tu trascorra delle ore al computer, che invece è la tua postazione di lavoro, che rispetta l'ergonomia. Nel salottino non ci sono queste condizioni, perché io non dovrei lavorare, però per le contingenze, per il numero di appuntamenti che si devono svolgere ogni giorno, per il numero di clienti che si devono affrontare, per il fatto che la realtà è sempre molto diversa dalla fantasia con la quale si pensano questi layout, e quindi io quando il cliente in presenza e magari devo istruire la pratica, e magari devo inserire dei dati, e magari devo stampare, magari io non faccio su e giù, porto il computer e mi metto lì. Ecco, noi abbiamo rilevato che colleghi trascorrono diverse ore in una postazione di lavoro che non è conforme alle previsioni di legge. È un po' come quando lavori da casa in smart working e sei al tavolo della cucina con una sedia che non è certo quella ergonomica. Alcune ASL hanno rilevato hanno riscontrato questa inadeguatezza, hanno ordinato alla BNL di provvedere, ma si è aperto, siamo in attesa di vedere come lo farà, si è aperto un ulteriore vaso di Pandora. Sempre da queste stesse ispezioni sta emergendo che anche i lavoratori e le lavoratrici delle filiali bancarie, delle agenzie, sarebbero videoterminalisti. Una cosa che a noi sembra ovvia, nel nostro contratto è previsto un limite oltre il quale si è videoterminalisti e sotto il quale non lo si è, che è quello delle 20 ore settimanali trascorse al videoterminale. A me viene incredibile pensare che qualsiasi attività da ufficio oggi comporti un numero di ore inferiore alle 20 ore, perché stai al computer, lavori al computer, punto. Quando non sei al computer sei al telefono con un occhio al computer o hai il cliente con un occhio al computer. E guarda caso però quando le aziende fanno le rilevazioni per verificare se quella tale attività è superiore o inferiore, trascorre più o meno di 20 ore a settimana al videoterminale, io vi dico l'ultima rilevazione di BNL sui lavoratori delle agenzie, 19 minuti e non vorrei sbagliare 51 secondi. No, non vorrei sbagliare se i secondi sono 51, però siamo lì. Allora, invece da più di queste ispezioni è venuto fuori, intervistando i colleghi, che gli ispettori dell'ASL hanno riconosciuto questi lavoratori come videoterminalisti. E ora la BNL sta rifacendo, siamo in attesa di conoscere gli esiti, le rilevazioni. Conteggio, e si arriverà magari a 19,59, io sono certo, lo dico oggi, accetto scommesse su questo, quindi poi magari ne riparleremo. Che cosa cambia all'azienda se io sono videoterminalista o meno? Riconoscermi come videoterminalista mi riconosce delle piccole pause dal videoterminale, non dal lavoro, quindi continuo a lavorare, dal videoterminale, che sono fatte per la tutela, comunque della mia salute, della vista, credo, no? Questa è un po' la ratio. Ecco, al datore di lavoro questo comporta che avere metà banca, perché l'altra metà è già videoterminalista, avere l'altra metà di banca che è videoterminalista e che per 15 minuti ogni due ore deve distrarsi, diciamo così, dal videoterminale, comporta un problema serio. E quindi tutto ruota sempre attorno, come è stato detto, al tema dei costi. Ecco, allora noi qui dobbiamo richiamare l'importanza del ruolo del RLS, secondo me, sotto due fattispecie. Una, che è quella anche a seguito di questa sentenza inopinata in cui l'RLS viene riconosciuto come colpevole di omicidio colposo, se non mi sbaglio, insieme al datore di lavoro, per svolgere questa funzione delicata bisogna non solo avere la voglia di farlo, le competenze che si possono anche acquisire, per carità, ma bisogna volerlo fare, ma soprattutto bisogna avere il coraggio di farlo, perché ricoprire certi ruoli semplicemente così per sport, diciamo così, o per medaglietta, oggi, se mai fino ad oggi fosse stato, come dire, in qualche modo anche solo da ipotizzare, oggi non lo è più. E l'RLS, che al pari dell'RSA o dell'RSU in altri settori è spesso in una posizione di ricatto perché è dipendente dell'azienda, cioè c'è una sola strada per uscire da questo: l'RLS deve essere tutelato, protetto dal sindacato, il quale sindacato deve fare il sindacato, non è che deve fare altro, perché quando un nostro RLS parte con gli esposti non si deve a sua volta esporre lui, lo deve fare con la piena protezione politica, giuridica dell'organizzazione sindacale alla quale appartiene e di cui molto spesso l'RLS è anche una emanazione. Anch'io concludo dicendo che il fatto che non si riesca a migliorare nel mondo del lavoro la situazione relativa al numero dei morti o al numero di infortuni, e guardate che quando noi leggiamo i dati ufficiali dell'INAIL, quelli sono non solo riferiti alle denunce presentate, Quindi quelli sono i morti presentati come, datori, come, come avvenuti sul lavoro, o gli infortuni presentati come avvenuti sul lavoro. Ma ricordiamoci che noi siamo un paese in cui il tessuto economico produttivo è fatto di piccole e piccolissime imprese, dove c'è una quantità di lavoro sommerso enorme, e quindi domandiamoci quanti morti sul lavoro vengono poi invece dichiarati come morti a casa, a letto, o durante, boh, non so, una gita al mare o qualcosa del genere, o infortuni non vengono dichiarati come infortuni sul lavoro. Quindi i numeri potrebbero essere esponenziali. E tutto questo è figlio ed è frutto del fatto di una cultura, vorrei usare sempre gli stessi termini, ma neoliberista, che da decenni attraverso mille modi, dalla precarizzazione anche del lavoro stabile a quello appunto di ridurre il più possibile il peso anche della sicurezza sul lavoro, non sta facendo altro che spostare ricchezza dal salario al capitale, spostare ricchezza dal lavoro ai profitti, perché il potere d'acquisto reale dei salari in questo paese, ed è l'unico dei 27 OCSE, è al palo. Noi speriamo come bancari di aver dato un buon esempio con un contratto che finalmente porta un riconoscimento economico che recupera e protegge da tutta l'erosione dell'inflazione degli ultimi anni e da quella programmata dei prossimi anni, e che deve essere da volano possibilmente anche per gli altri settori. Però ecco, se siamo l'unico paese in cui oggi chi è stipendiato guadagna in termini di potere d'acquisto reale il 3% in meno di 30 anni fa, mentre i profitti delle grandi aziende, delle multinazionali, continuano ad accrescersi, e con essi gli stipendi miliardari di tanti manager. Signore, torniamo a quel problema di cultura di cui parlavamo prima. Tutto è legato al profitto, alla spartizione della torta. Si produce una certa quantità di ricchezza, e una misura continuamente e progressivamente crescente della ricchezza che si produce va al privato. C'è anche uno spostamento di reddito dal pubblico al privato attraverso i processi di privatizzazione che sono stati rappresentati, che riguardano i trasporti, ma riguardano anche la sanità, come è stato detto. Per quanto riguarda, chiudo sul tema delle rapine. Guardate, sapete, noi con Josef e con tutta, diciamo, il gruppo soprattutto di Milano, per anni abbiamo fatto delle battaglie, anche delle manifestazioni sul rischio rapine in banca, e per anni ci siamo sempre trovati a discutere con l'azienda se fosse più efficace il mantenimento del presidio della guardia giurata, che comunque ha una funzione di deterrente, oppure se sia più efficace, come sostiene l'azienda, la previsione di tutta un'altra serie di strumenti che sono, diciamo così, tecnologici in uso presso le banche. Una cosa è certa, perché poi secondo le aziende il presidio armato comunque espone ad altri rischi, perché se c'è il conflitto a fuoco, tutte argomentazioni che conosciamo. Una cosa è certa, che il fenomeno delle rapine in banca si è andato riducendo per un motivo, fondamentalmente, perché il contante sparisce, tende a non esserci più. Però sono aumentate le rapine nelle farmacie, nei tabaccai, nei supermercati. Quindi anche lì, quelli sono luoghi dove la sicurezza sul lavoro potrebbe essere, diciamo così, meno esposta rispetto ai cantieri, all'edilizia e ad altri settori. Però quando ci mettiamo il rischio che ti venga qualcuno armato e espone te, magari anche la tua famiglia, dobbiamo domandarci come i presidi sulla sicurezza intervengono e come il legislatore interviene, perché è vero che non si fa altro che aumentare le pene, però questo è un deterrente sufficiente? O l'aumentare le pene a volte può portare il rapinatore a un gesto disperato per non essere preso? Grazie. Ringraziamo Tommaso Vigliotti, segretario Unisim BNL e nazionale. E noi in questo dibattito, che poi è una tavola, naturalmente avete sentito argomenti che potrebbero andare avanti per ore, necessiterebbero di approfondimenti che non abbiamo il tempo di fare. E qui ne abbiamo aggiunto un altro, un argomento importante che tra l'altro era molto caro anche al nostro Renzo, che era quello legato all'inquinamento. E una storia, direi la storia delle storie, perché per chi ha la mia età, e qui vedo parecchi, partono da certe immagini in bianco e nero di quella nube tossica di Seveso negli anni 70. Da allora c'è chi è andato avanti, come per esempio parallelamente all'amianto, a tutte quelle questioni che sono nate e sono andati avanti con una resistenza veramente che va oltre quelle che poi sono state le reali, diciamo così, risposte dallo Stato, diciamo, per dirle tutte. Abbiamo qui Davide Biggi, che è proprio portatore di questa storia e di tutto quello che è stato fatto, di una lotta per la vivibilità. Adesso si fa tanto parlare di sostenibilità, eccetera, e comunque l'inquinamento, quella nube tossica, ci resta ancora come la madre di tante. Allora, ciao, dai, diciamo che grosso modo do per scontato che più o meno i termini li conoscano tutti. Comunque, brevemente, il 10 luglio del 76 a Seveso esplode una componente di un impianto industriale dell'ICMESA, una fabbrica chimica che era in realtà proprietà di una multinazionale svizzera, la Roche-Givaudan. Esce una nuvola contenente diossina che si disperde sul territorio e inizia appunto una vicenda di quelle dopo, come si dice, dopo le quali nulla fu più come prima. È una vicenda sicuramente paradigmatica e che in fondo, diciamo, aveva evidenziato molte cose che poi purtroppo abbiamo sentito ancora oggi, insomma. Innanzitutto le conseguenze, come è stato detto prima, le foto in bianco e nero, penso le ricorderete, dei bambini colpiti dalla cloracne, per esempio, che furono più di 200, e molti dei quali con conseguenze durate nel tempo, plastiche, chirurgie, eccetera, perché era come una sorta di gravissima ustione sulla pelle dei bambini. In realtà ci sono conseguenze molto meno evidenti e molto meno evidenziate su l'aumento di alcuni tumori nel corso degli anni successivi, che però sono stati anche monitorati, però poco divulgati, perché venivano fatte le rilevazioni su, diciamo, tutto andava nella banca dati della medicina del lavoro dell'Università di Milano, però gli esiti delle varie indagini, dei vari dati statistici, gli incroci epidemiologici, eccetera, venivano pubblicati sulle riviste americane in inglese, quindi di fatto non c'era una divulgazione, ma sono aumentati una serie di tumori nella popolazione residente, tumori alle parti molli, no? Al fegato, eccetera, leucemie. Ora, al di là di questo, qual è il punto, secondo me, che può essere di interesse rispetto a quello che un po' mi è stato sollecitato? Innanzitutto che è stato il primo, o almeno il primo percepito episodio in cui le nocività che stavano fino a quel momento nella fabbrica esplodono sul territorio, proprio letteralmente esplodono sul territorio. E per la prima volta, in qualche modo, anche chi non era dentro la fabbrica, e parliamo di un territorio dove le fabbriche veramente erano infilate in territori che precedentemente avevano tutt'altro tessuto produttivo, artigianale, agricolo, insomma la Brianza, no? Diciamo così. Quindi c'è sempre stato un rapporto di estraneità, anche rispetto a quello che succedeva nella fabbrica. Se ci lavoravi dentro sapevi cosa voleva dire, ma fuori un po' te ne fregavi. Da quel momento è stato un po' difficile fregarsene, perché tutto quello che succedeva dentro esce con questa nuvola. E un altro, e da qui insomma si possono fare una serie di riflessioni che poi magari riprendo. Un altro aspetto che è importante anche per l'oggi è che è stata una prima grossa emergenza sanitaria con una gestione politica dell'emergenza sanitaria molto evidente. sia per quanto riguarda le origini del problema, le cause del problema, le cause dell'esplosione del reattore, della diffusione della nuvola di diossina, e anche sulle conseguenze sanitarie, per cui inizia tutta una questione di minimizzazione del problema che si era creato, nel senso che le autorità da subito cercano di tenere basso l'allarme, tenere basso la percezione del pericolo, e anche sulla gestione del territorio, per esempio per quanto riguarda l'ampiezza e la diffusione, diciamo, dell'inquinamento sul territorio, e diciamo quanto era esteso l'inquinamento e quanto fosse in tutta l'area in cui si era esteso l'inquinamento, quanto fosse effettivamente grave, perché ci fu da subito una mappatura anche lì al ribasso, la zona gravemente inquinata, dove poi ci fu anche l'evacuazione della popolazione. Era una zona molto piccola intorno alla fabbrica, e mentre la parte più esterna è stata considerata sì inquinata, ma non poi così tanto, ma naturalmente nel tempo le cose si sono dimostrate un po' diverse. Quindi c'era un governo di questa emergenza in qualche modo. Qual è la cosa un'altra cosa però importante? È che a fronte di questo modo di governare l'emergenza ambientale e sanitaria c'era una risposta diversa, innanzitutto perché arrivarono a Seveso alcune realtà e alcune esperienze, come quella sviluppata da Medicina Democratica nelle lotte per la salute nelle fabbriche in quel periodo, e in particolare il gruppo di Castellanza, no? E insieme a loro ovviamente Luigi Mara, Maccacaro, anche se Maccacaro morì poco dopo il fatto di Seveso, e non riuscì a vedere neanche pubblicato il famoso numero speciale di Sapere su Seveso, che era una rivista che dirigeva lui. Questo, insieme al fatto che comunque anche in Brianza erano gli anni 70, per cui c'era un posizionamento diverso, una sensibilità diversa, portò alla nascita di realtà come ad esempio il Comitato Tecnico Scientifico Popolare, che era animato appunto sia dal supporto di Medicina Democratica, ma anche di lavoratori, almeno alcuni, del Consiglio di Fabbrica dell'ICMESA e altri giovani del territorio, soprattutto colpiti dalle conseguenze dell'inquinamento, sia famiglie di sfollati che comunque chi abitava in quella zona. Io abitavo lì, non ero nella zona direttamente coinvolta, però insomma non è che eri proprio tranquillo, anche se avevo 12-13 anni, insomma. Ora, questo ha aperto una serie di ha fatto sì che si verificassero una serie di cose secondo me interessanti anche oggi. Intanto perché proprio grazie all'intervento di queste realtà come il Comitato Tecnico Scientifico si è cominciato a ragionare sulle cause dell'incidente, sul prima, perché non si capisce cosa è accaduto quel giorno se non si capisce com'era quella fabbrica prima, e quindi un'industria con una fabbrica con impianti molto vecchi, molto obsoleti, con un'età media dei lavoratori abbastanza alta, quindi se vieni licenziato, insomma, si sa che sei più di 50 anni anche all'epoca, se venivi licenziato era più difficile ricollocarsi, anche se non era proprio la realtà di oggi, ma insomma era comunque più complicato. Quindi poi in una realtà territoriale non particolarmente ribelle, diciamo che c'era una forza lavoro tutto sommato più schiacciata, più ricattabile, almeno in parte. E infatti proprio con il contributo dei lavoratori di Castellanza, alcuni lavoratori dell'ICMESA proprio ricostruirono come era fatto l'impianto, dove si era verificato l'incidente, eccetera, e quale tipo di sostanze venivano utilizzate, perché il problema è anche quello, cioè il fatto che comunque era un impianto vecchio, obsoleto, con sistemi di controllo blandissimi, però che utilizzava sostanze piuttosto pericolose. E poi diciamo che questi gruppi portarono a Seveso anche un'altra cosa, cioè l'esperienza delle lotte nelle fabbriche che si fondavano sul tema della soggettività, cioè il fatto che appunto i lavoratori erano chiamati, come dire, a costruire la conoscenza del loro luogo di lavoro, dei rischi che c'erano nel loro luogo di lavoro, che non era una questione di soglie o di misurazioni astratte, ma partiva proprio anche dalla percezione viva della persona che lavora in un contesto, quindi i sintomi che venivano registrati tra i lavoratori, il tipo di pericoli che il lavoratore stesso vedeva, perché in quell'ambiente c'è quella parte di reparto che non è sicura, eccetera. Quindi veniva introdotto anche un paradigma diverso, anche della stessa salute, no? Dove chi è direttamente interessato non è oggetto passivo, ma è un soggetto attivo che interviene per modificare i contesti, per modificare e rimuovere le cause di nocività e le cause di pericolo. Ovviamente in un primo momento cosa succede? Succede che a fronte di tutto quello che era successo, le istituzioni, diciamo, le autorità sanitarie erano in difficoltà, perché un po' non sapevano bene, un po' non volevano sapere, un po' erano sotto la pressione della politica, delle multinazionali, eccetera, per cui di fronte, almeno nei primi mesi, di fronte a quello che accadeva, balbettavano letteralmente cose anche contraddittorie, mentre si era creato tutto un giro appunto delle soggettività attive che ho descritto prima, che invece proponevano un punto di vista molto più articolato e molto più certo e anche scientificamente certo. Per l'esempio più importante è il famoso numero speciale della rivista Sapere, dedicato proprio a Seveso, dove c'erano una serie di spunti, di analisi, sia dal punto di vista medico-sanitario, ma anche dal punto di vista dell'ingegneria industriale, dal punto di vista giuridico, non aveva, cioè, dall'altra parte non c'era niente del genere. Quindi c'era proprio una competenza prodotta dalle lotte, portata su quel territorio. Tra le altre cose si sperimentò un tentativo abbastanza originale, perché quella modalità, no, di interpellare i soggetti fu portata sul territorio e si cercò di fare la stessa cosa in alcuni quartieri popolari della zona, quindi coi questionari distribuiti alle persone che abitavano nei pressi della zona inquinata per registrare eventuali sintomi, eccetera, eccetera. Quindi cercarono di portare un po' le modalità che erano state sviluppate nelle lotte precedenti, nelle lotte di fabbrica. E appunto, per un certo periodo sembrò anche un po' saldarsi diciamo il movimento operaio che si era mosso intorno alla vicenda di Seveso, perché poi su questa questione si mobilitarono anche altri consigli di fabbrica della zona, ce n'erano parecchie. Tra l'altro, in quella zona, a pochi chilometri dall'ICMESA, c'era anche l'ACNA di Cesano Maderno, dove negli anni precedenti c'era stata una lenta strage di lavoratori per cancro alla vescica, perché lavoravano produceva vernici, usavano delle sostanze che poi si rivelarono altamente cancerogene. Quindi in realtà la questione si comprese che era molto sentita, quindi attorno a questa vicenda si saldarono molti soggetti che riuscirono in parte anche a coinvolgere il territorio. Poi le cose non sono andate proprio così, nel senso che entra pesantemente una serie di soggetti, in particolare Comunione Liberazione, che ha avuto un ruolo terrificante. Si capì subito, da quando comparve quel manifesto, che io ce l'ho ancora in mente, ero un ragazzino, nonostante tutto a Seveso la vita continua, che inizia a dare un'altra narrazione che appunto minimizza i problemi, minimizza i pericoli. La faccio breve, insomma, hanno vinto loro, purtroppo, perché le cose sono andate come sono andate, anche perché poi, insomma, siamo alla fine degli anni 70, viene meno un po' tutto. Inoltre, appunto, la ICMESA ha chiuso, il giro di lavoratori che si era creato nel frattempo si è disperso, quindi non si è più andati molto avanti. Però è stato interessante constatare come in fondo per un attimo sembrava essersi creata questa saldatura che poteva dare, per esempio, all'ambientalismo, che si dice sia nato proprio dopo Seveso, una cifra un po' diversa, perché in realtà l'ambientalismo nasce però su una sconfitta, non tanto su una vittoria, sia per i lavoratori in quel contesto, sia per il territorio che alla fine si è tenuto la diossina sostanzialmente e via dicendo. Si è visto questa frattura pesantissima tra fabbrica e territorio, si è visto in vicende successive, ad esempio, così d'amblè quelle che mi ricordo, l'ACNA di Cengio, oppure la Farmo Plant di Massa, dove c'erano proprio manifestazioni contrapposte tra i lavoratori aggrappati al posto di lavoro nel bene e nel male e popolazioni locali che invece volevano la chiusura delle fabbriche e non si è più riusciti a costruire qualcosa che rompesse sia il ricatto sicurezza, salute e lavoro per i lavoratori, ma anche il ricatto ambiente o sviluppo economico. Quello che si dice adesso, di fronte a qualunque schifezza viene proposta, più o meno il paradigma è sempre quello del ricatto. Un'altra cosa che secondo me è interessante importante da focalizzare è un po', qualcuno prima, Nicola prima ha toccato il tema della pandemia, è inevitabile se si parla di salute. In effetti abbiamo constatato come il venir meno di tutta una serie di cose che in qualche modo si stavano profilando in quel periodo, la prevenzione, eccetera, eccetera, il presidio territoriale per la salute, insomma, sono stati una delle ragioni per cui la pandemia è stata così disastrosa, soprattutto i primi tempi. Però non è mancato solo quello, sono mancate proprio soggettività capaci, di porre in maniera pubblica e collettiva la tutela della nostra salute. Diciamo che la salute secondo me è privatizzata in due sensi: è privatizzata perché c'è il privato che fa i profitti, ma è privatizzata anche come percezione soggettiva. La salute è un fatto personale, no? Se hai una malattia brutta è una sfiga tua, non c'è più una riflessione sulla salute come bene collettivo e sulla possibilità di rimuovere le cause della nocività, le cause della malattia, della sofferenza in maniera collettiva. E credo che, diciamo, almeno personalmente, il periodo della pandemia, non so, io ho proprio percepito una inadeguatezza mia e penso anche di tanti altri, non credo sia un sentimento solo mio, perché appunto in realtà non siamo riusciti a elaborare una narrazione, secondo me una narrazione particolarmente efficace. Noi abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza sulla questione Seveso, che tra l'altro è tornata in ballo perché c'è la faccenda della Pedemontana, perché lì devono fare l'autostrada e passa in mezzo le terre ancora contaminate, quindi si apre un po' di nuovo quel capitolo, perché la diossina è ancora lì sotto la superficie, ma è ancora lì. Ecco, diciamo che un po' questi sono degli spunti su cui forse l'esperienza di Seveso può essere utile perché è utile al presente, ecco, diciamo. Non so, poi magari diciamo altre cose. Verrebbe da chiedere: i nuovi movimenti ambientalisti, questi sulla sostenibilità, hanno creato quella frattura che tu dici che c'è rimasto con la gente, è stata un po' colmata da questo o non c'è un interesse? C'è un interesse globale, ma più che altro nelle intenzioni, e poi quando parli del territorio? No, è così, cioè i movimenti ambientalisti non hanno ricucito un granché, insomma, anzi... praticamente c'è in ballo il progetto di realizzare un'autostrada, l'autostrada Pedemontana, che attraversa proprio i territori che sono stati contaminati nel 76. Come ho detto all'inizio, il territorio contaminato è stato diviso in zone, in base all'inquinamento dichiarato, poi che fosse quello vero, abbiamo visto che non è così. La zona A, la zona B e la zona R era quella più contaminata, su cui la bonifica poi è stata fatta anche, secondo me, intelligentemente, tutto sommato, anche se è stata preceduta dall'ira di Dio, perché adesso non voglio tediare, ma insomma qui tra fusti di materiale di scarto che sono stati trovati in Germania, in Francia, cose che sono finite forse anche dentro una fabbrica che aveva un proprio inceneritore a Mantova, raccontato da Paolo Rabitti nel suo libro Diossina, le verità nascoste, e insomma, poi si è arrivati comunque a prendere tutto quello che c'era di contaminato, fare queste vasche famose sotto le quali hanno sepolto tutto e sopra ci hanno fatto il Bosco delle Querce, che è il vanto della nostra zona. Era anche il simbolo di rinascita, in realtà più simbolo di rimozione che di rinascita, eccetera. E poi le altre zone erano zone considerate toccate dall'inquinamento, ma non in maniera pericolosa, e lì non è stato fatto niente. Per tutti questi anni non è stato fatto niente. Siccome adesso devono farci le autostrade, sono stati costretti in quei territori a misurare di nuovo la quantità di inquinamento presente. In realtà l'inquinamento c'è, la diossina c'è, ma c'è colpevolmente, perché i comitati, come quelli che ho citato prima del periodo 76-79, lo dicevano che la mappatura era insufficiente, era fatta proprio tirata col righello, e più per minimizzare l'allarme sociale, i costi di bonifica, i costi dei risarcimenti. Erano stati fatti anche delle contro indagini, che vabbè, sono, sto sempre dal comitato, in collaborazione con una università olandese, insomma era stato prodotto molto materiale critico, però fondato, cioè non così lo scetticismo fine a se stesso, ma molto, molto fondato. E oggi siamo in presenza di questa minaccia, perché le terre che per fare il lavoro dell'autostrada si devono movimentare le terre contaminate. La stessa bonifica, che viene presentata come una soluzione, in realtà non lo è veramente, perché comunque si tratta, la bonifica consiste nell'asportare le terre e metterle nelle discariche speciali, ma alla fine è la stessa, movimenti la terra, cioè il problema è che lì muovi terra, la sparpagli dappertutto e va ovunque, e il problema è che l'inquinamento di Seveso non è un inquinamento cioè non è una zona industriale, ex industriale, con un inquinamento circoscritto nell'area industriale. Per dire, a Brescia, in quella fabbrica che non ricordo bene, esatto, la Caffaro, ce n'è molta di più di diossina, molta di più, però è in una zona chiusa, è un'ex fabbrica, e quindi è un po' diverso. Penso che lì una bonifica sia possibile. Adesso non sono un ingegnere ambientale, ma penso che si possa fare anche in sicurezza, piano piano. Ma da noi la diossina è pervasiva, ormai è davanti alle case, è a 50 metri dalle scuole, cioè qualunque cosa tocchi sbatti per aria polvere contaminata. L'unica cosa da fare è quella che noi abbiamo sempre sostenuto, è la messa in sicurezza, che è un po' diversa, cioè vuol dire non toccare niente dove è pericoloso farlo, magari metterci su dell'altra terra e tenerla vincolata a verde, in modo che ci siano aree verdi con 3 metri di terra sopra l'area inquinata. In alcuni punti fare interventi di bonifica, ma piccoli, circoscritti, per non muovere milioni di tonnellate, perché si parla di questo, di muovere milioni di tonnellate di terra contaminata. Quindi siamo alle prese con questa cosa, stiamo cercando di... c'è anche una rete di comitati che si oppone, piccolini, perché non siamo la Valsusa, ecco, quindi diciamo la Brianza non è esattamente così. Però questo è un po' lo scenario attuale, ecco. E l'ambientalismo, no, anzi, diciamo, gli ambientalisti certificati, come li chiamiamo noi, sono alla fine diventati quasi dei consulenti gratuiti del decisore politico. Gli fanno vedere dove c'è una criticità, se il politico non è scemo qualcosa fa e siamo tutti a posto, no? E chi fa questi scempi dirà: ma come, abbiamo ascoltato anche gli ambientalisti, la Lega Ambiente, questi qui, più di così cosa dobbiamo fare? Se dobbiamo aggiungere qualcosa all'insipienza di chi poi gestisce questi luoghi, no? E pensare che, voglio dire, Seveso non è neanche tanto distante, ma in quella direttrice ci sono altre aziende che poi nel corso degli anni sono state classificate, secondo la direttiva Seveso, in classe A. Mi era capitato di andare in una di queste per dei controlli, e mi ero reso conto della follia con cui Da un lato la direttiva dice che per la prima volta si prende atto che un problema che nasce all'interno di un'azienda può essere collegato all'esterno, cioè questa è la grande novità, no? Si riconosce che il danno nato all'interno dell'azienda non finisce nel perimetro ma va ben oltre e va a interessare la popolazione che non ha neanche gli strumenti di difesa che ha la fabbrica. E in questa situazione qua, in un'azienda di classe A, poco più avanti da lì, il comune da un lato accettava la classificazione dell'azienda, che aveva a che fare con l'ossido di etilene, che già una volta gli aveva incendiato il paese, perché sto parlando di Fino Mornasco, e dall'altra parte dava il permesso di costruire a ridosso del perimetro aziendale. Cioè siamo a livelli di follia nella pianificazione, nella gestione malata del territorio, perché quando tu sei in una situazione di questo genere qua, dove hai già creato un danno, andare a crearne di ulteriori, come può essere anche in questa logica la situazione di scegliere una nuova autostrada che attraversa un sito dove la contaminazione ha già determinato e ha determinato dei residui che sono lì, non è che li hanno portati via. E poi portarli via, cioè se entriamo in una logica di costi di spostamento di quelli che possono essere quei residui, parliamo di cifre impossibili che non sono giustificate da nessun sito autostradale di questo mondo, dall'abbreviazione di un percorso o cose di questo genere. Ma volevo aggiungere una cosa a quello che non riguarda tanto il tema dell'inquinamento quanto la consapevolezza operaia e i cicli produttivi. Perché lì dentro abbiamo parlato dei gruppi omogenei, ma era anche il percorso che era stato fatto in quegli anni. Il mio primo abbonamento è stato alla rivista Sapere, per quello che lo ricordo abbastanza bene, la ricostruzione dei cicli produttivi. Cioè il lavoratore era coinvolto, sapeva cosa si faceva all'interno del suo luogo di lavoro, cosa entrava come materie prime e che cosa usciva. Oggi se voi entrate in un'azienda, i lavoratori sono confinati, rigidamente confinati, all'interno del reparto in cui stanno e non vedono nient'altro. L'azienda, il luogo di produzione, non è più guardato come un insieme unico. E questo riduce notevolmente anche la consapevolezza nel difendere gli interessi di altri, no? Quindi la personalizzazione del posto di lavoro. Questo è ancora fino ad arrivare a situazioni vere e proprie. Io mi ricordo che proprio qui a Conchetta una volta, durante era stato citato quello che aveva fatto per esempio Esselunga, no? Rispetto al fatto che impedisce ai lavoratori di parlarsi tra di loro, cioè che non c'è la possibilità di colloquiare l'azienda totale, la qualità dell'azienda totale, il libro che Curcio ha scritto rispetto a questa vicenda. Stiamo parlando esattamente di questo. Tu arrivi fino a un punto dove una parte è una frammentazione di tipo sociale, una parte è una frammentazione pianificata e voluta dal datore di lavoro, che non ti permette neanche di mettere insieme i dati per capire ma questi problemi che stanno succedendo da un punto di vista della salute ci sono in quel reparto come ci sono in quell'altro oppure no. Provate a pensare, insomma, io voglio aprirvi uno scenario per evitare di fare sempre dei ragionamenti al passato, ma c'è qualcuno che si chiama Bill Gates che dice che prima c'è stato il PC, poi c'è stato internet e adesso arriva l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha già un impatto con la nostra vita e provate a pensare alla nuova forma dell'azienda, cioè l'evoluzione della 4.0, no? O quella che chiamano 4.2, dove praticamente una serie di funzioni verranno totalmente governate dall'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che può arrivare ad avere una decisione opposta a quella che ha pensato l'essere umano. Cioè il datore di lavoro che sta facendo la valutazione dei rischi, che dice questo non si fa, mentre un sistema autoevolutivo che è stato addestrato, che apprende dalle informazioni che gli sono state date, elabora quelle informazioni e arriva a considerazioni opposte a quelle rispetto a quelle del datore di lavoro. Siccome siamo nella generazione non più dei robot antropomorfi, ma siamo nella generazione dei cobot, intesi come robot compatibili, perché questa è la definizione. Il robot compatibile che cos'è? È quello che, a differenza del robot antropomorfo, sta vicino all'uomo, lo tocca, tu ci vieni in contatto. Noi non sappiamo esattamente, anche perché da un punto di vista normativo c'è in discussione il regolamento sull'intelligenza artificiale nella Commissione Europea, ma ancora non ci sono norme. Però nel frattempo l'Unione Europea ha già deciso che l'intelligenza artificiale può governare alcune funzioni di sicurezza, cioè diventa un componente di sicurezza certificato. E questo apre uno scenario che è particolare, perché se io dipendo dall'intelligenza artificiale su quando deve intervenire la sicurezza, devo avere una certezza di tipo scientifico che allo Stato è ben distante. Lo dico perché qui abbiamo i bancari, ma loro che sono appunto bancari e non banchieri, ma loro sono quelli che sono coinvolti maggiormente da quella che sarà questa evoluzione, perché non è mica un caso che abbiano pianificato una riduzione sistematica di tutte le agenzie territoriali e di tutte le banche territoriali, perché alla fine l'home banking assolveva quella che era la funzione che normalmente prima dovevi fare in agenzia, ma perché avevi bisogno del contante. Adesso, laddove il denaro diventa invece virtuale, tu non hai più bisogno di questa roba qua, ma se non c'è più necessità di dover ricorrere ad avere la manipolazione del contante, tu puoi tranquillamente pensare a un sistema nella quale i nostri amici, cari e fratelli possono essere tranquillamente sostituiti. Quando si parla, e secondo me sottovalutato dalle persone sane, dell'impatto che avrà l'intelligenza artificiale, dell'impatto sociale dell'intelligenza artificiale, cioè del numero di lavoratori che perderanno il posto di lavoro perché entrano in quella dinamica per cui non sono più funzionali ai nuovi cicli produttivi che ci saranno, questo sarà un problema da risolvere, perché a voglia che qualcuno ci dica licenzierò milioni di persone, ma l'intelligenza artificiale mi darà lo spazio per nuovi lavori, e quali saranno questi nuovi lavori? No, perché voglio dire, stiamo parlando di questo, quindi stiamo parlando di una situazione dove questa società sta avvocando a sé delle decisioni che saranno delle decisioni collettive senza consultare, perché questo è il problema. Dove sono i diritti delle persone quando non hanno neanche più diritto alla consultazione? Non dico alla decisione, che è quella da mo che è stata tolta, però dico almeno alla consultazione. Questo diventa un problema che è gigantesco, perché stiamo parlando di una società che ha dimostrato come ha utilizzato la possibilità e la capacità del controllo sociale, no? Provate a pensare cosa sono diventate oggi le telecamere, no? Provate a pensare oggi dove è arrivato il controllo sociale. Oggi sono in grado, come si diceva una volta a Roma, di leggerti quanti peli hai sul culo. Quindi questa è la situazione concreta. E cioè, in una situazione di questo genere qui, se voi pensate ai nuovi cicli produttivi, penso che qualche motivo, prende in considerazione il nuovo regolamento sulla sicurezza delle macchine, addirittura lo stress lavoro correlato da poter stare a contatto con una macchina che è governata dall'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di questo, cioè, tanto per dirvene una. Bene, con questo farei un applauso a Nicola, anche se ci hai aumentato lo stress da dibattito correlato, ma alla fine arriva così, no? Qui si sono aperte tantissime questioni, purtroppo il tempo non ce le permette di affrontarne neanche una, perché abbiamo dato una visione ampia ed è stato veramente molto interessante, e quindi anche lo spazio per l'intervento del pubblico non ci sarà, perché adesso dovremo allestire per mangiare questa sera, poi la serata proseguirà, e canzoni legate anche a questa sì, alla pandemia, ai morti sul lavoro, ce ne saranno in una serata dedicata a Renzo Prevedelli, che è il nostro compagno scomparso recentemente. Ma io volevo chiudere ringraziando tantissimo, perché anche se poi altro spazio mi sarebbe piaciuto darlo, a Alessandro Pellegata, che diciamolo pienamente, RLS Trasporti. Quanto hai accumulato? L'ultima domanda è: quanti giorni di sospensione hai accumulato in tutta la tua attività fino adesso, non soltanto per un caso? Ma più o meno una trentina. Sì, poi con tutto quello che, cioè, quello che è stato detto comunque è la verità. Tra l'altro io sono stato eletto a pieni voti in occasione del rinnovo dell'RSURLS, avremmo praticamente sbancato, ma non mi è stato possibile presentarmi perché, non avendo firmato il testo unico il mio sindacato, noi siamo stati buttati fuori dal, e quindi io praticamente o un RLS si camuffa e va in una lista di un sindacato, diciamo, ufficiale, riconosciuto dall'azienda, però con tutto quello che ne consegue, quindi lacci, lacciuoli, eccetera eccetera, oppure fare battaglie da fuori come stiamo facendo noi. Però questa è la realtà anche sindacale, non solo padronale, insomma, cioè, che fa riflettere. I rapporti di forza purtroppo oggi sono dall'altra parte, è evidente. Ma l'autotutela, questo merita un altro dibattito che faremo dopo domani. Grazie Alessandro Pellegata. Tommaso Vigliotti, Unisin BNL, Davide Biggi, che ci ha dato un quadro che francamente, vedi, era un po' scomparso anche perché purtroppo è così, scompari, la situazione viene focalizzata per mesi, poi scompare, sembra tutto risolto, perché in fin dei conti Seveso è ancora viva, no? Si fa per dire. E poi infine ringraziamo Nicola De Lusso per averci dato proprio il cappello globale, ci hai coperto totalmente sia di informazione e anche di tensioni. Grazie. Cioè, ci fermiamo, ci rifermiamo. Ci ritroviamo, allora adesso non andate via naturalmente, perché adesso stiamo allestendo e c'è una cucina che, dico, non è di meno del dibattito e della musica che verrà dopo. Grazie.